i violenti del regno di Dio. Una delle tante affermazioni di Gesù paragonabile ad un fulmine a ciel sereno è stata: e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Matteo 11:12. Consultando anche altre Bibbie, vi sono leggere sfumature nella traduzione, ma tutte concordano che il regno dei cieli è rapito o impadronito dai violenti. Chi è a conoscenza dell'intero messaggio della Bibbia davanti a una simile asserzione non può che restare perplesso, se non addirittura smarrito, perché il messaggio di Dio è principalmente un messaggio di pace. Gesù disse nel Sermone del Monte: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra», che altri traducono con «beati i non violenti». E ancora: «beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio». Matteo 5:5-9. Possiamo anche comprendere malamente la parola di Dio, ma non vi è dubbio che nel Sermone sul Monte Gesù abbia valorizzato chi non è violento e chi si adopera per la pace. Come intendere allora la testimonianza di Gesù secondo la quale sono i violenti a impadronirsi del regno di Dio? È forse una contraddizione? È giunto il momento di mettere in pace il nostro cuore in merito alle apparenti contraddizioni della parola di Dio, perché è ora che si accettino le verità opposte, verità che esistono da sempre in tutti i settori, come nel campo della fisica e quello spirituale. Nel campo della fisica vi è il nero e il bianco, un vento a favore e uno contrario, vi è la gravità terrestre ma anche quella opposta della luna, vi è la destra e vi è la sinistra. Se leggiamo nel libro dell'Esodo, troviamo scritto che la nuvola andò a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento di Israele, e la nube produceva tenebre per gli uni, mentre faceva luce agli altri di notte. Dunque, un aspetto non esclude l'altro, una verità non elude l'altra. Un giorno d'autunno camminavo con l'ombrello aperto perché pioveva, ma contemporaneamente avevo il sole in faccia che abbagliava gli occhi. Se qualcuno avesse descritto questo momento della mia vita, avrebbe potuto benissimo affermare che in quel giorno pioveva, mentre un altro avrebbe potuto sostenere che in quel giorno c'era un sole accecante. Due aspetti di un'unica verità. Così è pure nel campo spirituale. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo che Gesù testimonia di essere la radice e la progenie di Davide. Apocalisse 22:16. Come può Gesù essere contemporaneamente colui da quale discende Davide ed esserne anche un suo discendente? Il figlio di Dio è la radice di Davide perché egli è eterno, ne è la progenie perché è nato dalla sua discendenza circa 1000 anni dopo. Con questo prospetto ci avviciniamo alla spiegazione dell'affermazione di Gesù secondo la quale i violenti si impadroniscono del regno dei cieli. Uno stupendo libro dello psicologo, dottore, scrittore e conferenziere Paul Tournier Tarpie, dal titolo in italiano Uomo, potere e violenza, mette in evidenza l'impossibilità che non esista la violenza. Dopo aver dimostrato che per tutti, animali e uomini compresi, l'aggressività è indispensabile per sopravvivere, dopo aver specificato che l'errore non sta nell'aggressività o nella violenza, ma nello scopo, egli fa comprendere che pretendere un mondo senza... Una delle sue meditazioni che mi ha fatto riflettere per parecchio tempo è stata la seguente. Tutti ammettono che nel cuore dell'uomo ci è un bisogno di amare. Ciò che io sostengo qui è che ci è anche, allo stesso tempo, nello stesso cuore, un bisogno di odiare e uccidere. Non si potrebbero manipolare gli esseri umani se già non vi fossero nel loro intimo i sentimenti che vengono risvegliati. Si rimprovera al cinema e alla televisione di offrire troppi spettacoli di violenza, e con ragione, perché invitano pericolosamente al delitto. Ma ve ne sono altrettanto nella Bibbia che si racconta piamente ai bambini. Credo che non si possa contrastare una simile affermazione, che è in armonia con tutto il libro, nel quale Paul Tournier mette in evidenza che non è tanto la violenza ad essere sbagliata, perché allora anche la violenza di Cristo nel cacciare tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano sarebbe stata fuori luogo, ma piuttosto lo è l'uso errato e l'abuso che ne facciamo. Colpire un uomo per vendetta è sbagliato. Ma resistere con forza e, casomai, avere una violenza attiva nei confronti di chi ti vuole violentare è più che lecito. Citare il comando di Gesù di porgere l'altra guancia in questa situazione è alquanto sbagliato, perché il nostro Salvatore non si riferiva a queste situazioni ma in caso di fede. Se un nemico ti percuote in una guancia perché sei un cristiano, tu sei chiamato ad offrire l'altra. Ma solo in questo caso. La parola di Dio non ha mai ordinato ai figli di Dio di soffrire passivamente ogni situazione. Quando Paolo e Silvano furono ingiustamente gettati nella prigione della città di Filippi, e in seguito i pretori mandarono i littori a liberarli, Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. No davvero, vengano loro stessi a condurci fuori. Atti 16 e 37. La giusta violenza è più che opportuna. Allora cosa voleva intendere Gesù quando disse che i violenti si impadroniscono del regno dei cieli? Il regno dei cieli è tutto ciò che appartiene all'ambito di Dio, ogni luogo in cui egli regna. Ma, poiché vi è un nemico, cioè Satana, il cui appellativo significa avversario, è ovvio che questo regno debba resistere agli attacchi di chi vuole impadronirsene. Così, il regno di Dio è prima di tutto un luogo di battaglia, battaglia non sempre di difesa ma anche offensiva. Quando l'Apostolo Paolo disse ai credenti di Efeso che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti, non stava esponendo un concetto astratto, ma una realtà quotidiana. Vivere la vita cristiana significa combattere ogni istante contro le tentazioni sbagliate, contro ogni tipo di seduzione che porta l'uomo lontano da Dio. Ai credenti di Corinto Paolo dovette dare questa testimonianza, infatti anche se camminiamo nella carne non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. L'Apostolo Paolo non ha mai predicato la pace fine a se stessa, non ha fatto dell'argomento della pace un'arma per ottenere i suoi obiettivi, ma ha sempre presentato l'Evangelo e la vita cristiana come un elemento di guerra, di combattimento. Vi sono momenti nella storia dell'umanità nei quali gli uomini desiderano la pace sociale più di ogni altra cosa e la desiderano tanto da farne uno strumento di guerra. Parlare di pace, solo di pace, significa preparare il terreno per un conflitto mondiale. Quando l'Evangelo non distrugge ogni conoscenza che si eleva contro Cristo, quando i figli di Dio non trovano ostacoli nell'opinione pubblica, significa che il fronte della verità ha perso il suo volto e il lupo si è rivestito da agnello. Non si fa la guerra spirituale perché si ama il conflitto in se stesso. A meno che non vi sia qualche alterazione psicologica, ma perché tutti, proprio tutti, e fra questi prima di tutto i figli di Dio, amiamo la pace. Essere figlio di Dio significa passare da un esercito all'altro, significa far parte di un'armata che non lascia tregua al nemico. In fine dei conti, essere nel regno di Dio significa terminare la propria esistenza e dire con l'Apostolo Paolo, «Ho combattuto il buon combattimento». Ho finito la corsa, ho serbato la fede, 2 Timoteo 4, 7. Il regno di Dio è dunque preso dai violenti. Fino ad ora abbiamo considerato non la presa del regno di Dio, non di coloro che se ne impossessano, ma abbiamo piuttosto constatato come coloro che fanno parte del regno di Dio debbano combattere. Come dunque è possibile entrare nel regno di Dio? Con la forza. Il Dio dei cristiani non è colui che dà grazia agli umili ma resiste ai superbi, cioè fa loro violenza. In effetti è così. Chi desidera entrare nel regno di Dio con le proprie forze o capacità verrà inesorabilmente respinto. Ma chi desidera far parte del regno di Dio per accettarne le sue regole, allora è accolto favorevolmente. L'umiltà è la prima condizione per far parte del regno di Dio. La seconda è fare violenza a se stesso, rifiutare con un atto di volontà quella testarda disposizione a non volersi sottomettere alle condizioni di Dio. In questo mondo non esiste dramma e combattimento che sia paragonabile alla lotta spirituale di un'anima che sceglie nella piena libertà di volersi sottomettere alla volontà di Dio, che rifiuta il fronte e l'esercito con il quale prima condivideva ogni cosa per appartenere ad un esercito a lui sconosciuto. Mentre con il primo esercito condivideva la realizzazione della sua terribile volontà, ora sottomettendosi a Dio e arruolato nel fronte opposto, egli condivide la rinuncia alla propria volontà e la rinuncia alla realizzazione dei propri obiettivi per compiere con tutto il suo essere il volere del suo re. Il regno di Dio non è un regno nel quale capita di trovarsi dentro, non è un luogo che trovi per caso come quando esplori una zona sconosciuta e ti imbatti inaspettatamente in un bellissimo paesaggio. Il regno di Dio è il regno dei forti e per coloro che vogliono entrare e per coloro che non agognano. Altro che far parte di quelli che umilmente accettano di sottomettersi al Re dei Re, il Signore dei Signori. Cristo Gesù uomo. In definitiva, entrano nel regno di Dio le persone che bramano con santo ardore di entrarvi, che accedono al regno con una volontà tale da rinunciare a tutto, che entrano perché pienamente coscienti che senza appartenere al regno di Dio per loro sarebbe la morte, che scelgono di morire per trovare la vita. Tutto questo viene realizzato con un atto di aggressività, un'irruenza che procede da volontà voluta. Gesù disse: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno». Luca 13:24. È angoscioso pensare che alcuni cercheranno di entrare nel regno di Dio e non potranno, perché lo cercheranno senza veemenza, senza voler trovare, perciò è più che urgente bussare con ostinatezza quella volontà violenta che ci concede di entrare e vivere nel regno dei cieli. Giugno 2004. Ellero.